Lunedì scorso, avete letto sui giornali, i carabinieri, su informazioni ricevute, hanno fatto un blitz in un capannone dalle parti di Viale Jenner qui a Milano, scoprendo un laboratorio di pelletteria di proprietà di un cittadino cinese, i cui dipendenti, tutti cinesi anche loro, erano trattati in modo particolarmente rivoltante, da giustificare un'accusa di riduzione in schiavitù. Lavoravano 24 ore su 24 a turno, non uscivano mai, dormivano e mangiavano nel laboratorio stesso in condizioni di straordinario disagio e sporcizia, e così via. Tra quanti erano sottoposti al trattamento c'erano anche tre minorenni di non più di 16 anni. Il proprietario, signor Lin Zhanglin, è stato arrestato, i minorenni sono in comunità, i 12 lavoratori risultati sprovvisti di permesso di soggiorno hanno avuto il loro bravo foglio di via, chissà come saranno contenti, è stata aperta un'inchiesta sulle ditte italiane sulle cui commesse si fondava quella turpe attività. Questa è la notizia. Se non l'avete notata non è colpa vostra, è sparita anch'essa con una rapidità straordinaria dalle pagine locali di tutti i nostri quotidiani e si capisce, non rappresentava certo uno scoop. Scoperte del genere sono state fatte parecchie negli anni scorsi, nessuno ha prodotto effetti degni di nota. La grande stampa è sempre pronta a intenerirsi sui bambini sfruttati purché si facciano sfruttare altrove, in Pakistan, in Bangladesh o in altri angoli remoti del terzo mondo. Che il terzo mondo allini anche dalle parti di Viale Jenner non è notizia degna di particolare risalto. E poi Milano non è più la città operaia in cui la difesa della dignità del lavoro era un impegno generale, in cui la solidarietà rappresentava un valore sentito da tutte le classi sociali. Oggi se a Milano si parla di solidarietà succede soltanto perché il sindaco ha deciso di contendere a Bologna la sede dell'Authority per il volontariato, qualsiasi cosa essa sia. Non deve essere niente di buono, perché tra authority e volontariato a me sembra di notare un'opposizione semantica che non potrà che avere dei risultati nefandi sul significato politico di quell'istituzione, ma lasciamo perdere. Milano oggi è una città di impiegati in attesa di perdere il posto con la prossima ristrutturazione, una città di precari che non possono permettersi solidarietà di nessun genere e una città di bottegai, di speculatori, di padroncini vari che se mai gli capita di pensare ai vari Lin Zhanglin lo fanno per invidiare la loro libertà dai lacci che impediscono il libero mercato. Sì, questo Lin Zhanglin nello specifico è finito in galera, ma non è detto che ci resti poi tanto. È probabile che ne esca quanto prima cavandosela con la classica multa e possa tornare alla sua attività. E quanto all'inchiesta sui committenti italiani, alzi pure la mano chi pensa che concluderà a qualcosa. Tuttavia, prima di archiviare la notizia in attesa del prossimo blitz, una giornalista di Repubblica ha avuto l'intelligente idea, lo dico con piacere per una volta, di intervistare nel numero del 12 marzo uno di quei committenti italiani. Ed è una lettura che vi raccomando. Mi intervistate un tale Giovanni P., la cui azienda è attiva da mezzo secolo e da 8-10 anni si serve dell'opera del signor Lin. Produce articoli in pelle sintetica destinati ai grossisti, compra del materiale, lo taglia e lo dà ai laboratori cinesi perché lo confezionino. Ai laboratori cinesi perché gli artigiani italiani, spiega il signor P, non fanno più questo tipo di attività. I cinesi hanno dei prezzi molto più competitivi, altrimenti non ci staremmo dentro coi costi. E con questo l'intervista al signor P è già finita. Lui del suo terziarista sa solo questo, che gli faceva pagare poco. Non sa neanche che lo hanno arrestato. E quando l'intervistatrice gli fa notare che il risparmio sulla manodopera in questo caso si è tradotto in un sfruttamento del lavoro nero e minorile, si affretta a dichiarare la più assoluta ignoranza in materia. Sfruttatori clandestini? Bimbi trattati come schiavi? Ma lo so adesso. Io al laboratorio di Vino non ci sono mai andato. Ci andavano i miei camionisti, ma in laboratorio non potevano entrare. Questo però glielo posso dire, il signor Lin è sempre stato reputato una persona corretta. Nell'ambiente dei fornitori è molto conosciuto. Lavora da tempo anche con ditte più famose della nostra. Deve essere molto ingenuo il signor Giovanni P. Non tanto perché a quanto pare non si è mai domandato come faceva quel suo collaboratore tanto corretto a fare dei prezzi così competitivi. Deve essere uno che più che all'economia crede ai miracoli. ma perché evidentemente è convinto che basti dichiarare di non sapere niente per essere esonerati dalle proprie responsabilità. Nessuno non gli ha mai insegnato che non so niente la risposta tipica di chi è inserito in un sistema di omertà, che non sanno niente i complici dei malavitosi arrestati, come non sapevano niente i bravi e zelanti funzionari civili che organizzavano i trasporti diretti ai campi di sterminio nazisti. E così non è riuscito a capire, lui che è un imprenditore, uno che dirige un'impresa semisecolare, che si direbbe una cosa che richiede una media intelligenza, non è riuscito a capire che non sapere, quando si tratta di attività in cui si è personalmente coinvolti e da cui anzi si ritrae guadagno, non è un esimente, ma è un aggravante. Ci dispiace per lui? No, non ci dispiace affatto per lui, ma quello di sapere quali sono le conseguenze delle proprie azioni non è un optional, è un dovere.